L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Oggi, sull'onda dell'entusiasmo per il Salone del Libro di Torino, faremo un salto in libreria anche noi, spizzicando qua e là alla ricerca di volumi per grandi e piccoli che insegnino l'amore per la natura e il rispetto per l'ambiente in cui viviamo, che segnalino problemi grandi e piccoli e ci insegnino a risolverli. Diamo spazio prima di tutto ai piccoli. I Folsic volano sulle aquile da centinaia di anni. Di solito lo fanno se devono coprire lunghe distanze e preferibilmente di notte, quando il rischio di essere visti o impallinati dai gambe lunghe è minore. Per questo, ogni mano verde che si rispetti deve obbligatoriamente seguire il corso di pilotaggio avicolo. E non basta. Prima di salire in groppa a un grande rapace, deve aver effettuato almeno 99 ore di addestramento, variamente distribuite tra fringuelli, frosoni, peppole, storni, cince, merli, ghiandaie, germani, gazze, cigni, aironi, falchetti, poiane, gufi, barbagianni e chi più ne ha più ne metta. Tipico linguaggio per iniziati, questa è una storia per ragazzi e chi non c'è già dentro è fuori. Solo che anche i ragazzi in questa occasione sono fuori, perché le avventure di Flambus Green, folletto dei boschi in missione nella città dei gambe lunghe, e cioè gli uomini, sono nuove di zecca per tutti. Il primo volume si intitola Un folletto in città, edizioni PM. L'autore è Roberto Pavanello, un insegnante di italiano del Milanese alla scuola secondaria di primo grado, come si diceva un tempo, alle medie. Sicuramente il mondo magico dei folletti li affascina, insomma, ci devono un po' credere a questo mondo dei Folsic, come li ho chiamati io, cioè folletti silvani custodi, i custodi del verde in generale, loro lo chiamano il mantello verde. E quindi questa commistione tra magia del mondo dei folletti e la realtà della natura, che peraltro è attualissimo, va tutelata in tutti i modi, perché abbiamo solo quella, una volta che l'abbiamo distrutta siamo a piedi, e li colpisce, insomma, l'intreccio è efficace, almeno mi sembra. Ha fatto bene a ricordare, un intreccio, anche perché c'è sempre una ricerca, cioè non è tutto semplice, non è una favola, ecco. No, cerchiamo di documentarci, cerco di documentarmi, quindi almeno le notizie scientifiche che tangenzialmente si infilano in queste storie sono verificate, sono tutte vere. Quindi quando nel secondo episodio che troveranno in libreria fra poco si parla di balene, ci siamo documentati sul pericolo che corrono di questi animali, il pericolo di estinzione, la caccia selvaggia, il disturbo che le navi danno con i loro sonar, eccetera eccetera. Quindi c'è una parte, diciamo, informativa. Naturalmente il tutto è diluito e sciolto in una narrazione che si spera accattivante e soprattutto divertente, perché questi folletti ne combinano di tutti i colori, insomma, non sono proprio una squadra organizzatissima. Questa collaborazione col WWF come è nata? Questa collaborazione è stata quasi obbligata, cioè noi abbiamo informato il WWF che partiva questa nuova serie, chiedendo appunto di collaborare per veicolare meglio il messaggio, per dirlo in modo serioso, e naturalmente il WWF ha aderito con grande entusiasmo, per cui abbiamo pensato alla fine di mettere questa specie di giornalino dei folletti, che abbiamo chiamato la Gazza Ladra, una specie di notiziario dal mondo dei Folsic, che aggiunge una serie di notizie di tipo scientifico, didattico, anche ludico, perché ci sono anche dei giochini. Gli adulti. Gli adulti sono adulti buoni, adulti meno buoni, ma questa è la vita, no? Ma in generale sono forse un po' distratti. Sì, abbiamo cercato anche lì, naturalmente mediandolo con l'età dei lettori, di rappresentare un mondo adulto variegato, cioè, da quelli naturalisti convinti, a quelli pentiti, a quelli che invece stanno abbarbicati ai loro interessi, alle loro certezze. Flambus Green, un folletto in città, edizioni PM, collana Il Battello a Vapore, 12,50 €. Di verde in verde, per un pubblico decisamente più adulto, Enciclomedia pubblica Naturale Inclinazione, divagazioni coerenti di un paesaggista ribelle, di Ippolito Pizzetti. Nato nel 1926 e morto nel 2007, Pizzetti fu un grande paesaggista e saggista, anche architetto, sebbene la laurea in architettura la prese solo nel 2004, honoris causa. In realtà si era laureato in letteratura italiana con Natalino Sapegno nel 1950 con una tesi su Cesare Pavese, una formazione umanistica che ha condizionato il suo sguardo sulla natura. Sentite questo passaggio. Non vorrei che da questo mio discorso si inferisse che io sia un fanatico seguace del proclamato credo ambientalista, accettato alla lettera dai neofiti, solo piante autoctone. Cosa sarebbero diverse nostre città del sud o anche della Riviera Ligure senza piante esotiche, o le nostre città del nord senza le magnolie, che pure molti milioni di anni fa sono state autoctone? Nella zona di Ferrara mi appare un assurdo che nei giardini, diversamente che in altri paesi oltre il nostro confine, nel centro e nel nord d'Europa, la vegetazione consista in massima parte di conifere, squallidamente sempre uguali in tutte le stagioni, e che per trovare, non dico un faggio, ma quel che è peggio, una sola quercia, si debba andare a cercarla col lanternino. Non c'è cosa più insensata che nello spazio che apparteneva in gran parte agli estensi, il paesaggio i cui capisaldi erano soprattutto querce, carpini, frassini, aceri, tigli, olmi, per fermarci ai protagonisti, non rechi più o quasi in nessun luogo, nei pressi o attorno alla città, traccia della vegetazione originaria. Ma non di solo alberi e giardini è fatto questo testo. Verso il pronome personale di prima persona plurale noi, o come diavolo viene chiamato nelle grammatiche, devo confessarlo, e davvero non per farmene un vanto, provo, fin dai miei primi anni di scuola, una profonda e irresistibile avversione. Lascio stare la mia istintiva antipatia a considerarmi parte di quelle organizzazioni volute fin per noi piccolissimi dal fascismo. Credo che nel mio caso personale abbia giocato il sincero violento antimilitarismo ereditato da mio padre, il quale ogni volta che si nominasse la Grande Guerra non mancava di esprimere la sua antipatia per quei generali, Diaz o Cadorna o altri, che avevano mandato tanti giovani a morire con le loro strategie negli attacchi frontali. Ricordo ancora la canzone appresa da lui. Il general Cadorna scrisse alla regina: se vuol veder Trieste, la guardi in cartolina. Insomma, ci sono città e paesaggi, spunto per divagazioni, ma poi mica tanto fuori tema, e al contrario divagazioni che sono l'occasione per parlare di paesaggi, come quando Pizzetti, da alcune osservazioni sui muri imbrattati delle nostre città, arriva a discutere di torri eoliche e restauri. Naturale inclinazione, edizione Enciclomedia, 175 pagine, 13 euro. Natura, sostenibilità e vivibilità del pianeta si incrociano invece in La tempesta migratoria di Stefano Bettera e Francesca Terzoni. Un saggio per mettere in relazione i temi dell'immigrazione, dei cambiamenti climatici, dei diritti e della crisi economica, con i contributi di Emma Bonino, Andrea Poggio, Giuseppe Civati, solo per citarne qualcuno. Sentiamo Stefano Bettera. Il fatto che clima e immigrazione siano legati fra di loro nasce da una considerazione, essenzialmente, dal fatto che i cambiamenti climatici hanno le loro maggiori conseguenze su quei paesi che sono il luogo di partenza del fenomeno migratorio, che poi alla fine vediamo riversarsi nelle nostre nazioni, nei nostri paesi. Cioè i cambiamenti climatici che stanno inasprendo sempre di più le condizioni di vita di alcune aree del mondo, per cui lo vediamo in termini di mancanza d'acqua, in termini di inaridimento delle zone geografiche, in termini di proprio mancanza di risorse disponibili, sta facendo sì che gran parte delle popolazioni che sono appunto le vittime principali di queste conseguenze si spostino in maniera sempre più massiccia verso le zone del mondo che sono meno colpite da questo tipo di fenomeni. Questo appunto è il legame di fondo che tiene unite le due tematiche. Allora, è verissimo che le città devono diventare sostenibili, devono avere una maggiore efficienza energetica, devono essere più a portata d'uomo, ma proprio per questo motivo noi non possiamo parlare di città sostenibili se poi ci sono condizioni di vita insostenibili per gran parte della popolazione, e guarda caso gran parte di questa popolazione è di origine extracomunitaria, immigrata, e proviene appunto da quei paesi dove le conseguenze climatiche si fanno più sentire. Allora, costruire città sostenibili sì, green economy sì, ma bisogna declinare queste iniziative, questo tipo di politiche, in modo da tenere presente anche quello che è l'allarme che arriva dal flusso migratorio. La tempesta migratoria, Corberi Sapori Editori, 14 euro. È un volumetto piccolo ma agguerrito, il libro nero dello spreco in Italia, dedicato al cibo da due specialisti di politica agraria, Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria di Bologna, e Luca Falasconi, ricercatore presso la stessa università. Entrambi fondatori di Last Minute Market, una SRL nata come spin-off dell'università, che non solo fa beneficenza riuscendo a coordinare la richiesta di chi ha bisogno con le eccedenze della grande distribuzione, ma che più in generale lavora per aiutare le imprese a ridurre gli sprechi. Perché sprecare inquina, spiega Andrea Segre. Cerchiamo di dare anche così una somma dal campo alla tavola in questa filiera più o meno lunga o più o meno corta, cioè la produzione, la trasformazione, la distribuzione e poi il consumo. In realtà, se noi sommassimo dalle pere alle mele fino a quello che si trova nel nostro frigorifero, che non viene consumato, cioè viene gettato via come rifiuto, arriveremo alla bella somma di 20 milioni di tonnellate di cibo perfettamente consumabile. Tanto per capire questa montagna, potremmo dar da mangiare, i dati sono riferiti al 2009, sono dati reali, a una popolazione come quella della Spagna, 44 milioni di persone, colazione la mattina, pranzo e cena. Ecco, in valore sono 37 miliardi di euro, cioè più o meno il 3% del nostro prodotto interno lordo. Questo solo per dire che veramente noi sprechiamo, si tratta di perdite, di inefficienze, sostanzialmente una quantità di cibo enorme. Ecco, diamo un numero così si capisce, prodotti frutticoli, frutta, noi ne consumiamo, quindi sono in campo, sono le aziende agricole che producono, noi ne consumiamo 8 milioni di tonnellate in un anno e non arriviamo alle 5 porzioni al giorno che vorrebbero i nutrizionisti. Ebbene, 7 milioni e mezzo di tonnellate, cioè circa l'equivalente, viene fuori dal libro nero, rimangono appese agli alberi, cioè non vengono neanche raccolte, perché non c'è mercato per raccoglierle, costa troppo, perché sono di calibro non conforme rispetto agli standard comunitari, perché è venuta una grandinata e ha colpito il frutto. Ecco, solo per dire così alcune delle ragioni. Ma la cosa impressionante, mettendo appunto assieme questi anelli della filiera, è che noi per produrre, trasformare, distribuire e poi non consumare abbiamo usato delle risorse, il suolo, l'acqua, l'energia, il lavoro, i mezzi tecnici, gli antiparassitari, eccetera. Quindi abbiamo avuto un consumo che poi però non abbiamo consumato il prodotto che ne è risultato e abbiamo dovuto usare altre risorse per smaltirlo, perché smaltire evidentemente costa e produce delle esternalità negative, inquinamento, rifiuti. Mi incuriosisce sapere una cosa che riguarda più lei personalmente, ovvero da quando compie questi studi, nella sua vita quotidiana è cambiato qualcosa? Sì, ma un margine di miglioramento notevole, nel senso che io sono un gran teorico della lotta allo spreco, ma anch'io diciamo ho, come tutti noi, in realtà un margine di miglioramento enorme. Il libro nero dello spreco in Italia, il cibo, Andrea Segre e Luca Falasconi, con contributi di Paolo De Castro, Antonio Cianciullo, Marco Fratoddi e molti altri, edizioni Ambiente, 124 pagine, 12 euro. E prima di chiudere, merita senz'altro una segnalazione l'ultima fatica di Marinella Correggia, e magari servirà anche al professor Segre come riferimento. Si intitola Zero Rifiuti ed è un manuale per imparare a ridurre, o meglio ancora prevenire, ogni genere di rifiuto. E quindi, per tornare al cibo, la Correggia spiega come evitare di sprecare gli alimenti, come compostare o a chi regalare gli scarti alimentari, come evitare gli imballaggi, come minimizzare l'uso di carta. E quindi Zero Rifiuti, manuale di pratiche individuali e collettive per prevenire i rifiuti, cambiare la propria vita e l'economia, di Marinella Correggia, edizioni Altra Economia, 104 pagine, 5 euro. L'altro pianeta. L'altro pianeta prosegue a questo punto, come di consueto, con l'intervista di Cristina Carpinelli, quindi a lei il microfono. Giardoli, lei è considerato tra gli autori di narrativa per ragazzi una delle penne più interessanti. Intanto benvenuto all'interno della nostra trasmissione e la prima domanda è: quando lei scrive per ragazzi, sente il tema della terra, della sostenibilità, dell'impegno rispetto alla terra come un tema portante in qualche modo? Allora, scrivendo soprattutto per ragazzi, i temi che sento sono molti, naturalmente, perché sento anche da padre, sento la responsabilità di quello che scrivo, e quindi i temi affrontati sono naturalmente quelli che circondano la nostra vita, circondano la vita dei ragazzi, sono temi che meritano magari di essere in qualche modo sottolineati, in modo che ci possa essere poi lo spunto attraverso la storia, attraverso il libro, lo spunto per una riflessione. Chiaro che poi, soprattutto in questi giorni, come sempre diventa drammatica l'attualità, è particolarmente sentito poi il tema ambientale, no? Con quello che è successo in Giappone. Io poi faccio anche il veterinario, quindi diciamo che c'è un legame particolare tra, insomma, animali, natura, terra, ambiente, rispetto. Sì, diciamo sono tutti temi che sento in particolare, però non sono gli unici temi sui quali mi soffermo. Nel suo sito dice: non so dire se sono un veterinario che ama scrivere o uno scrittore che aiuta gli animali. È bellissima anche questa formula di incastro delle due professioni. E comunque un atteggiamento, diciamo adesso entrando nel suo specifico, proprio nella sua vita, un atteggiamento di riguardo rispetto ai temi appunto della sostenibilità, dell'impegno rispetto alla terra, lei ce l'ha? Sì, questo sicuramente, ma deriva appunto poi da come siamo cresciuti, da come siamo fatti, dalla nostra sensibilità. Quindi io poi è una cosa che cerco di perseguire in qualche modo anche a livello personale, al di là dell'impegno di scrittura. E quindi sì, poi in particolare, ecco, in quest'ultimo libro che presenterò a Torino tra poco, ho voluto proprio così cimentarmi con questi argomenti, anche perché un'esperienza personale proprio di turismo responsabile mi ha fatto poi pensare che avrei potuto testimoniare, anche se attraverso una storia per ragazzi, un'avventura poi diventata, insomma, ma questo tipo di impegno, questo tipo di cura per l'ambiente, ma non solo, anche per l'essere umano, perché poi ricordiamoci che turismo responsabile significa essenzialmente sì preservare l'ambiente, ma anche aiutare le popolazioni locali, soprattutto quando si va a fare turismo molto lontani dall'Italia, insomma, perché c'è in Italia c'è il turismo ecosostenibile, che è una cosa, no? E quindi questo si può attuare anche molto vicino a casa, si può attuare anche in qualche modo a casa propria quasi, ed è basato, no, sul risparmio, anche semplicemente su raccolta differenziata, sulle scelte delle energie, non so, per dire, lampadine a basso consumo. Poi quando si parla di turismo responsabile si parla di qualcosa che invece è un po' più lontano da noi, che riguarda altri popoli, altre terre, come dire, in qualche modo rientra anche il rispetto per qualcosa che è lontano da noi. E quindi ecco, io avevo fatto una vacanza in Oceano Indiano, in un'isola gestita da maldiviani, ecco da qua nasceva poi l'esperienza, e quindi in qualche modo mi sono avvicinato anche personalmente a questo tipo di tematiche, poi naturalmente le ho approfondite per mio conto. In generale, quando si avvicina a questi temi, i ragazzi come rispondono? Beh, intanto devo dire la verità che i ragazzi sorprendono sempre, e i ragazzi non sono mai all'oscuro di quello che racconto, perché in qualche modo vedo che, a parte sono molto sensibili a quello che viene detto, che viene raccontato, ma alla fine poi insomma si scopre che in realtà sapevano già qualcosa, quindi non è che proprio sto a raccontare delle cose mai sentite prima, e questo mi sorprende sempre molto piacevolmente. Però sono molto attenti, insomma è chiaro che il ragazzo, i bambini, anzi partiamo ancora, no? I bambini hanno un istinto naturale per gli animali, si avvicinano naturalmente agli animali, alla natura, quindi sicuramente in loro è innato una sorta di protezione verso l'ambiente, verso gli animali. Io credo che poi si, mi passi questo termine, si guastino un pochino crescendo, no? Quando poi gli interessi sono diversi, quando la vita li porta magari a prestare meno attenzione a questi temi qua. Anche uno scrittore, un autore per ragazzi, credo che debba tenere presente in qualche modo l'influenza che potrebbe avere, l'interesse che può stimolare con le sue storie in una mente in formazione, in una mente in crescita. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista e andiamo all'altra nostra rubrica settimanale, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Microfono a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, è in collegamento con noi il vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il dottor Marco Magnifico. Buongiorno dottor Magnifico. Buongiorno a voi. Anche oggi con noi, anche oggi in giro per l'Italia, anche oggi con il FAI a scoprire le bellezze del nostro paese, ma anche i problemi che queste bellezze, ahimè, portano con sé. Dove ci porta oggi, dottor Magnifico? Vi porto nel Gargano. Ah, che meraviglia. Sì, che meraviglia, veramente un luogo intatto, un paesaggio strepitoso, un mare strepitoso, e andiamo in comune di Monte Sant'Angelo, che è sopra Manfredonia. Quindi si arriva a Manfredonia, si attraversano quei campi meravigliosi di grano, si sale, si arriva a Monte Sant'Angelo, che dopo una periferia orribile ha invece un centro storico formidabile, e poi ci si addentra in una strada, in un paesaggio stupefacente, fatto di muretti a secco, di stazzi di pietra coi tetti di terra, ancora con le mandrie che pascolano, gli olivi, ma soprattutto i mandorli, e si arriva agli eremi di Pulsano. Ah, ecco. E cosa sono gli eremi di Pulsano? Ma gli eremi di Pulsano sono un enorme buco, come dire, quindi una grande valle, una specie di Cappadocia italiana, un grande canyon, dove nel VI secolo dopo Cristo arrivarono i solici monaci eremiti di provenienza direi turca, insomma comunque che venivano da là, e costruirono 24 nidi d'aquila in questo specie di canyon. Ci sono queste specie di nidi abbarbicati su delle formazioni rocciose calcaree straordinarie, dove gli eremiti si rintanarono a pregare. Ecco, quindi questa Cappadocia italiana che credo gran parte degli italiani ignorino, se non quelli che naturalmente abitano in questa bellissima parte d'Italia. Come mai l'avete scovato questo luogo? L'abbiamo scovato perché non l'abbiamo scovato noi per niente, l'hanno scovato quei 34.000 italiani che quest'anno hanno votato gli eremi di Pulsano nel nostro censimento annuale dei luoghi del cuore, e gli eremi di Pulsano sono balzati in testa. Nessuno di noi si sognava nemmeno di pensarci all'esistenza, e invece siamo andati qualche giorno fa e siamo rimasti a bocca aperta di fronte a una meraviglia storica, naturale, spirituale e paesaggistica, veramente un'assoluta vetta del nostro paesaggio, della nostra storia. Ecco, e se il censimento dei luoghi del cuore ve l'ha segnalato, è evidentemente perché c'è anche qualche pericolo per questo luogo. Qual è il pericolo? Ma, sai, il pericolo è che dunque gli eremi, soprattutto anche la stessa chiesa madre, che è Santa Maria di Pulsano, che adesso è stata recuperata grazie all'opera di un formidabile eroe monaco benedettina, padre fedele, che l'ha recuperata, ma gli eremi erano stati abbandonati, soppresso l'ordine nel 1870 e poi dopo abbandonati fino al 1997, quando padre fedele decise, sfidando ogni buon senso, di andare a vivere lì senza finestre, col freddo, senza acqua eccetera, e ha ricominciato a mettere a posto la chiesa madre. Ma gli altri 24 eremi sparsi nella valle sono ovviamente abbandonati a loro stessi, quindi crollano le volte, si deperiscono gli affreschi, si portano via magari i ladri, si portano via i rilievi, i bassorilievi che magari sono del VI, VII, VIII secolo, per cui qui il problema è che da un lato vanno conservati, dall'altro troppi soldi, come dire, e un restauro troppo importante li danneggerebbe, perché porterebbe quel turismo di massa che rovinerebbe questi luoghi che sono fatti per pochi anacoreti che pregano. Quindi è una difficile mistura tra la necessità del restauro e la necessità che questi luoghi rimangano isolati e accessibili a pochi. Peraltro è talmente difficile, sono andato solamente a due di questi eremi, ma ci vuole veramente, bisogna essere dei montanari, io sono abbastanza montanaro, quindi, perché bisogna arrampicarsi, ci sono delle stradine scavate nella roccia strettissime, con degli strapiombi mostruosi, se uno un po' di vertigini va giù per terra. Per cui è veramente un luogo, ecco, che ha bisogno di essere restaurato, ma che ha bisogno anche di essere lasciato solo, per continuare a essere noto come gli eremi del silenzio, dove il silenzio, parte fondamentale della vita di ogni uomo civile, ispira naturalmente ad altri pensieri. Insomma, gli eremi di Pulsano devono essere come certe isole del Mediterraneo, no? Che ci sono, ma sulle quali non ci si può attraccare e nemmeno avvicinare. Bisogna che esistano, perché tengono viva la memoria di una natura intatta. In questo caso abbiamo un luogo di spiritualità che deve rimanere intatto, quindi che bisogna salvare, ma non bisogna deturpare con una presenza massiccia. Sì, certamente, naturalmente, dall'alto, cioè dall'alto dalla chiesa di Santa Maria, molti di questi eremi si vedono là barbicati sulle rocce del canyon, per cui ecco, li si può vedere ma da lontano, forse avvicinarvisi un po', ma senza raggiungerli, perché raggiungerli è sia difficile che pericoloso. Insomma, un piccolo Monte Athos, oltre che una Cappadocia. Proprio così. In Italia. Senta, dottor Magnifico, grazie mille, gambe in spalla a questo davvero. Punto, seguiamo il FAI, speriamo di averla presto con noi. Grazie. Grazie a tutti per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Per scrivermi laura.bettini@radio24.it oppure l'indirizzo della trasmissione l'altropianeta@radio24.it.